Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. I ricercatori dell'Università della Pennsylvania hanno scoperto perché chi perde peso russa di meno. A Obiettivo Salute il commento del professor Luca Levrini, odontoiatra e docente all'Università degli Studi dell'Insubria. Certamente, perché nel momento in cui il paziente perde peso, automaticamente anche la dimensione della lingua diventa più piccola. Diventando più piccola, in qualche modo la lingua va a ostruire in maniera meno importante le zone posteriori che permettono al paziente di respirare regolarmente durante la notte. E quindi più la lingua è piccola e meglio è. C'è una cosa che però bisogna in qualche modo evidenziare. Sì, sicuramente è la dimensione data dall'ingombro del grasso che c'è nella lingua. Sì, anche il tono muscolare è importante per una lingua. Ma anche è importante capire dove è collocata la lingua, perché una lingua normale in una bocca normale non dà nessun tipo di problema, nessun tipo di ingombro posteriore. Una lingua normale in una bocca piccola, e quindi mi riferisco per esempio ai bambini che hanno un palato contratto, quindi una scatola, un contenitore ridotto, è come se avesse una lingua grande relativamente. E quindi, allo stesso modo, è importante comprendere se la lingua è grande di dimensione dovuta al grasso, per esempio, oppure anche grande di dimensione dovuta al contenitore, cioè la bocca. Uno studio condotto su oltre 100.000 persone, pubblicato sulla rivista ufficiale della Società Europea di Cardiologia, conferma che il consumo abituale di tè protegge il cuore e riduce il rischio di malattie cardiovascolari. A Obiettivo Salute il commento del professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Intorno al tè esistevano una serie di evidenze, soprattutto per il tè verde e il tè nero, ed in particolare per il grande contenuto di polifenoli che esistono in queste sostanze, che sono sostanze circolanti, che sono in grado di migliorare la funzionalità delle nostre arterie. Ovviamente molti dati esistevano relativamente agli effetti vascolari, pochi relativamente agli eventi cardiovascolari. Quindi questo nuovo studio in realtà rappresenta un grandissimo ponte che collega il meccanismo fondamentale del beneficio cardiovascolare del tè con la salute cardiovascolare reale della popolazione, quindi rappresenterà certamente una buona notizia non solo per chi lo beve abitualmente, ma anche per chi ritiene che dalla natura noi possiamo trarre ovviamente grande protezione per il nostro cuore, per le nostre arterie. E per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog e io vi aspetto, oggi torna a trovarci Raffaele Morelli, non mancate, buona giornata da Nicoletta Carbone.